Noi 7 anni fa abbiamo avuto una straordinaria vittoria sul referendum, quel referendum è stato disatteso e però il lavoro del movimento per l'acqua, ma anche il movimento dei rifiuti, continua ad andare avanti. Non ci rassegniamo al fatto che quel referendum non sia stato applicato e la proposta di legge regionale che abbiamo presentato oggi congiuntamente Movimento dell'Acqua Regionale e Rete Regionale dei Rifiuti Zero va esattamente in questa direzione, e cioè va nella direzione di favorire la ripubblicizzazione del servizio idrico, del servizio di gestione dei rifiuti, e a rendere più vicina le sedi decisionali ai cittadini e agli enti locali per quanto riguarda la gestione del servizio idrico e la gestione del servizio dei rifiuti, e quindi va sostanzialmente in una linea di attuazione del referendum. Merito al secondo quesito di quel referendum che si esprimeva sul fatto che nelle tariffe dell'acqua ci fosse una percentuale massima per remunerare insomma gli investimenti delle aziende o comunque di chi gestiva il servizio. Nella vostra proposta di legge si parla in merito a questo punto? La proposta di legge è una proposta di legge regionale e quindi in quanto tale non può intervenire sul sistema tariffario, che è un sistema tariffario fissato nazionalmente e in particolare dall'autorità nazionale, che oggi si chiama ARERA. Peraltro noi come Movimento per l'Acqua abbiamo già chiesto lo scioglimento di ARERA, abbiamo chiesto che le competenze vengano riportate in capo al Ministero dell'Ambiente e stiamo facendo presente questo anche al nuovo governo. Diciamo che la proposta di legge regionale è una proposta di legge che aiuta, perché va verso la ripubblicizzazione, va verso il fatto di ridare la possibilità ai cittadini di contare di più e quindi anche per questa via indirettamente poter ragionare anche sul sistema tariffario. E però per quanto riguarda il sistema tariffario in quanto tale, come il livello di intervento rimane quello nazionale e su questo abbiamo iniziative e campagne in corso. Per quanto riguarda appunto gli investimenti, le aziende su cui voi puntereste sarebbe una loro competenza comunque? Beh, diciamo che nel momento in cui si va, come noi vorremmo fare con questa proposta di legge, verso la gestione pubblica, è evidente che la gestione pubblica in quanto tale è finalizzata al fatto che non ci siano utili e quindi non si facciano profitti sull'acqua e sui rifiuti, e nel momento in cui ci fossero avanzi di gestione, perché nella gestione pubblica non si parla neanche di utili, si parla di avanzi di gestione, questa nella nostra logica, tutto ciò dovrebbe essere reinvestito nel servizio stesso. E quindi anche da questo punto di vista c'è un elemento, come dire, che modifica alla radice la logica col quale si è fatta in questi anni, nonostante la vittoria referendaria, si è continuata la privatizzazione e si è continuata a parlare dell'acqua e dei rifiuti come merci, come tutte quante le altre. Quindi diciamo, da questo punto di vista non interveniamo direttamente sul sistema tariffario, ma è chiaro che con il processo di ripubblicizzazione in qualche modo appunto puntiamo al fatto che appunto la vocazione sia quella di dare ai cittadini un servizio efficiente ed efficace, non quello di produrre utili dividendi come fanno le multi utility anche in questa regione a partire da ERA e da IREN.